Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi insieme con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e agli ascoltatori. Allora, oggi è mercoledì e siamo ad un passo da, per qualcuno, il ponte dell'Immacolata, no? E quindi proprio di questo parliamo, stiamo leggeri oggi. Sì, siamo leggeri per raccontare un attimo i risultati di una nostra indagine che ripetiamo ogni anno per capire quanta gente andrà via, dove andranno, eccetera. Noi l'indagine la svolgiamo all'interno dell'associazione, quindi tramite i nostri iscritti, non ha una finalità prettamente statistica, però dà dei trend che sono consolidatissimi. E diciamo che appunto dalla nostra indagine intanto vediamo che il ponte dell'Immacolata alla fine non è un ponte che verrà sfruttato da tantissima gente. Secondo la nostra indagine, il 24% delle famiglie, noi chiaramente l'abbiamo ristretta un po' alle famiglie veneziane, partirà per il ponte dell'Immacolata, quindi andrà via qualche giorno, mentre 3 famiglie su 4 non faranno nulla, insomma magari si dedicheranno a qualche gita fuori porta, però ecco, non andranno via più giorni. Tra chi non si muove, chiaramente abbiamo una parte che non si muove, esattamente il 15,8%, perché non ha possibilità economiche. Metà del campione, il 47,4%, invece ha altri impegni, quindi non può permettersi di andare via qualche giorno, e in particolare impegni di lavoro, mentre un altro 26% decisamente non è interessato a questo tipo di ponte, perché magari si dedica più ad andare via a Natale o magari a Capodanno. Sì, sì, veramente da poco ho capito anch'io che i miei figli, per esempio, venerdì e sabato mattina non vanno a scuola. E quindi loro il ponte lo fanno, gli studenti, insomma, la maggior parte usufruisce di questi 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Poi bisogna vedere se i genitori hanno questa disponibilità sia di tempo che di denaro, come dicevi tu. Infatti il problema probabilmente è questo. Devo dire che Adico sarà aperta, lo comunichiamo anche tramite il tuo programma, comunichiamo questo, quindi noi lavoriamo comunque, non facciamo ponte, però ecco, diciamo che sicuramente qualche famiglia ne approfitterà per andare via con i propri figli, però ecco, diciamo non è un ponte per il quale vedremo le tante grandi code nelle strade. Ecco, però proprio riferendo anche a quello che dicevi te, noi abbiamo anche analizzato anche altre caratteristiche. Intanto diciamo che metà degli intervistati starà addirittura via più di 3 giorni, quindi dal giovedì fino alla domenica, e mentre un terzo, un 32,4%, starà via proprio 3 giorni, mentre il 16,6% del campione, analizzato dall'Adico, se ne va via invece per un paio di giorni. Per quanto riguarda invece proprio quello che dicevi te dei figli a casa, noi abbiamo visto che, dalla nostra indagine sempre, il 31% delle persone che hanno risposto andrà via in coppia, quindi probabilmente con la propria compagna o con propria moglie, un altro 38% andrà via in coppia con i figli, in questo caso quindi va via l'intera famiglia, c'è anche un 17% curioso che va via da solo, mentre un 24% da solo, quindi senza la compagna, però assieme ai figli. Ecco, questa è un po' la rappresentazione di quelli che partiranno, quanti andranno via, insomma, all'interno della famiglia. Per quanto riguarda invece i luoghi, quindi le mete, noi abbiamo rilevato che insomma la gran parte delle persone resterà in Italia, esattamente il 73% dei nostri intervistati, il 19% invece se ne andrà in qualche posto in Europa, mentre un 8%, più fortunato evidentemente, andrà altrove in giro per il mondo. Per quanto riguarda la spesa, la stragrande maggioranza delle persone, esattamente l'88%, non intende spendere più di 250 euro a persona, e invece abbiamo un 11,6% che spenderà tra i 250 e i 500 euro a persona. Nessuno dichiara di spendere oltre i 500 euro a persona, e insomma questo, diciamo, era fuori discussione, nel senso che ce lo aspettavamo. Tra l'altro mi vorrei legare anche a una recente indagine che dice che insomma ancora una buona fetta di italiani può essere definita indigente, e sicuramente questa fetta non andrà via per il ponte dell'Immacolata. Un'ultima piccolissima notazione: noi monitoriamo anche sempre i prezzi della benzina, infatti l'altro anno abbiamo visto che rispetto al 2014 si era risparmiato un 10% di carburante, cioè il carburante costava il 10% in meno rispetto al 2014. Dobbiamo ancora fare il monitoraggio che effettueremo domani sul territorio, però sostanzialmente siamo all'incirca sugli stessi prezzi dello scorso anno. Ecco, nonostante poi lo sappiamo il gasolio costi molto meno rispetto a un tempo, ma ahimè molto va in tasse. Grazie quindi all'Adico, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca Codognato, a lunedì prossimo. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.